pomeriggio a tutti e a tutti. La vostra radionina è sempre sintonizzata sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa. E come te sbagli, essendo giovedì pomeriggio in tall'area, questa è Attica Blues. Oggi, dopo un po' di puntate varie, torniamo a festeggiare un centenario addirittura. Sì, sì, perché lo scorso 6 dicembre avrebbe festeggiato 100 anni una vera icona del jazz. Parliamo del pianista e compositore Dave Brubeck. Negli anni 50 e 60 pochi artisti, infatti, del jazz americani erano così influenti e ancora meno erano così popolari, proprio come Dave Brubeck. In un momento in cui i suoni più cool del jazz della West Coast iniziarono a dominare il pubblico della musica, Brubeck dimostrò anche che c'era un pubblico oltre quello più appassionato al jazz. E allora partiamo subito con il suo quartetto. Questo è Perdido. Pianista influente, come dicevi giustamente tu prima, Luca, talmente tanto influente che nella metà degli anni 50 gli fu dedicata la copertina del Times, cosa che era successa solo a Louis Armstrong prima di lui e non per esempio a Duke Ellington. E fu anche in qualche modo accusato di essere così influente proprio perché bianco, uno dei pochi in qualche modo esponenti bianchi del jazz americano. Eh sì, infatti il quartetto tipico di Dave Brubeck era dall'inizio un quartetto bianco, poi fino al 1958, quando subentrò Eugene Wright al contrabbasso, che era invece afroamericano. Però fin dalle origini, insomma, Dave Brubeck si era sempre rifiutato di suonare in quei locali in cui invece era vietato l'ingresso agli afroamericani. Dave Brubeck, che è nato a Concord il 6 dicembre del 1920, è cresciuto in una famiglia circondata dalla musica. Sua madre infatti era una pianista di formazione classica e due dei suoi fratelli maggiori sarebbero diventati musicisti professionisti. Lui ha iniziato a ricevere lezioni di pianoforte quando aveva solo 4 anni e ha mostrato fin dall'inizio una riluttanza a imparare a leggere la musica, ma la sua poi naturale predisposizione per la tastiera e la sua capacità di ascoltare le melodie a orecchio gli hanno permesso di mantenere questo segreto per diversi anni. Thank you. dopo questo live allo Bernin College del 1953 ci ascoltiamo un pezzo da un album del 1954, Stardust, uscito per la Fantasy, che racchiude registrazioni già dal 1951. Questa è Alice nel Paese delle Meraviglie, Alice in Wonderland. Adesso dall'album Brubeck Time del 1955, uscito per la Columbia, ci ascoltiamo uno standard, Jeepers Creepers. Thank you. prima di arrivare alla prestigiosissima Columbia, la vita del giovane Brubeck fu abbastanza avventurosa. Lasciò il college mentre la Seconda Guerra Mondiale era in pieno svolgimento e fu presto arruolato nell'esercito. Ha servito sotto il generale George Patton e avrebbe combattuto nella battaglia dell'Ardennes se non gli fosse stato chiesto di suonare il piano in uno spettacolo per la Croce Rossa. Brubeck così fu congedato con onore nel 1946 e si iscrisse al Mills College di Oakland, dove nel 1947 formò una band con molti altri studenti del college. Ma la vera svolta arrivò nel 1951, l'anno del debutto del Dave Brubeck Quartet, con il pianista affiancato da Paul Desmond al sax contralto. L'approccio accomodante ma avventuroso di Desmond è stato un compagno ideale per Brubeck, mentre la sezione ritmica del quartetto sarebbe cambiata ripetutamente negli anni successivi. Nel 1956 Joe Morello divenne il loro batterista permanente, mentre nel 1958 Eugene Wright divenne il contrabbassista, per una formazione stabile che rimarrà in piedi fino al 1967. Brubeck era appassionato della Disney, infatti rifece 8 canzoni da 4 film della Disney, da Pinocchio, da Cenerentola, da Biancaneve e da Alice nel Paese delle Meraviglie. È proprio una di queste che ci andiamo ad ascoltare, uscita sempre in un album per la Columbia del 1957, Dave Dix Disney. Questa è Someday My Prince Will Come. Thank you. Negli anni 50 la fama di Brubeck si era diffusa ben oltre la California settentrionale. Le registrazioni della Fantasy hanno raccolto ottime recensioni e vendite impressionanti e insieme a regolari esibizioni nei jazz club, il quartetto ha iniziato a suonare frequenti concerti nei campus universitari di tutto il paese, esponendo la loro musica a un pubblico nuovo ed entusiasta che ha abbracciato il loro approccio innovativo. E poi appunto l'8 novembre del 1954 la copertina sul Time e nel 1955 la firma con la prestigiosa casa discografica Columbia Records. Periodo seguì un flusso costante di registrazioni dal vivo e in studio e quando il Dave Brubeck Quartet divenne il gruppo di maggior successo negli Stati Uniti, nel 1959 pubblicò uno dei loro album più ambiziosi, Time Out, una raccolta di 7 pezzi scritti in tempi non convenzionali per il jazz, ossia tutti tempi dispari come il 5 quarti e il 9 ottavi. E sebbene la Columbia fosse inizialmente riluttante a pubblicare un album che riteneva fosse troppo artistico per il mainstream, i suoi timori si dimostrarono presto infondati. Time Out divenne il primo album jazz a vendere 1 milione di copie e nel 1961 tornò in classifica quando Take 5 è decollato inaspettatamente come singolo, salendo al numero 25 nelle classifiche pop. Allora noi cominciamo con il brano di apertura di questo importante lavoro, Blue Rondeau alla Turk. Adesso passiamo forse a uno dei temi più famosi della storia del jazz, quel Take Five scritto da Paul Desmond in realtà quasi per caso. Lui aveva usato questo ritmo per far scaldare il batterista Joe Morello e poi da lì nacque questo autentico capolavoro. We'll be right back. Thank you. Sempre dall'album Time Out ci ascoltiamo un terzo brano, quest'album uscito del 1959, l'anno che rivoluzionò in qualche modo il jazz, ci abbiamo anche fatto una puntata sopra e ovviamente l'abbiamo passato. Diventò quest'album il manifesto del cool jazz. Noi ci andiamo ad ascoltare la terza traccia, Three to Get Ready. ormai la musica del quartetto va largamente oltre il pubblico degli appassionati di jazz, che poi in realtà sono più reticenti e severi riguardo ai limiti tecnici del pianista. Noi andiamo avanti con questo Time Father Out, uscito nel 1961 ancora per la Columbia e che possiamo dire è un degno successore di Time Out. E noi ci ascoltiamo la traccia d'apertura, It's a Raggy Waltz. Thank you. adesso ci ascolteremo due live. Il primo è registrato il 22 febbraio del 1963 alla Carnegie Hall ed è Bossa Nova USA. come detto, nel 1967 questo meraviglioso quartetto si scioglie, ma già l'anno successivo, 1968, Brubeck ne forma uno nuovo con il sassofono baritono di Jerry Mulligan. E di questo periodo noi abbiamo scelto un concerto registrato alla Berlin Philharmonic Hall di Berlino il 7 novembre del 1970. Un concerto poi racchiuso in un CD doppio e che vede tra l'altro i primi due brani della serata, che sono brani inediti. Noi abbiamo scelto il secondo, Mexican Jumping Bean, scritto proprio dal baritonista Jerry Mulligan. Negli anni 80 in poi Brubeck battenne un programma che sarebbe stato adatto ad un nastro nascente desideroso di farsi un nome piuttosto che a un musicista anziano e rispettato. Lui che è stato forse l'artista jazz più onorato della sua generazione e infatti ha ricevuto premi da due presidenti degli Stati Uniti. Bill Clinton gli ha conferito la National Medal of Arts nel 1994 e Barack Obama gli ha conferito il Kennedy Center Honor nel 2009. Ha anche ricevuto una stella alla Hollywood Walk of Fame, un Grammy alla carriera e pensate, lauree honoris causa da università di 5 paesi diversi. E quindi quando morì il 5 dicembre del 2012, il giorno prima del suo 92esimo compleanno, il suo lavoro e la sua vita sono stati celebrati in tutto il mondo. salutarvi abbiamo scelto un brano inciso nel 1973 dall'album All the Things We Are, in compagnia di due sassofonisti d'eccezione, Lee Konitz ed Anthony Braxton. In questo caso il brano è uno standard, All the Things You Are. State sintonizzando solamente ora, o comunque se volete ascoltare questa come una delle tante altre puntate di Attica Blues, troverete a brevissimo il podcast sul meraviglioso sito della radio www.ondarossa.info. Trovarci è facile, basta andare a palinsesto, cercare il giovedì pomeriggio, vi si apre la pagina con le varie trasmissioni, tra queste trovate Attica Blues, cliccate e ci si apre la nostra pagina con i podcast delle varie trasmissioni, ognuno corredato da una breve descrizione, dalla scaletta e da una foto che in qualche modo rappresenta la trasmissione. E come di consueto vi ricordiamo anche le nostre pagine social. Attica Blues la trovate su Facebook, su Twitter, su Instagram e anche su Spotify, dove troverete una ricchissima playlist di musica nera. In tutti i casi basta cercare Attica Blues e ci troverete facilmente. Calendario di zero calcare.